Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Eccoci qua, l'avete riconosciuto? Chi era? Chi era? Era la voce del presidente partigiano, era la voce di Pertini che chiamava all'insurrezione di Milano. E noi ve l'abbiamo già detto che quest'anno, come POC, a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e per i 18 anni di partigiani in ogni quartiere, ci stiamo interrogando su che cosa significhi oggi fare antifascismo, contro chi ci dobbiamo ribellare, contro quali nuovi fascismi, quali speculazioni e come ci immaginiamo la militanza del futuro. Eccola così, direttamente dallo spazio. Ciao ragazze! La militanza dal futuro. Direttamente dal futuro. La nostra risposta al Blue Origin, la Kate Perry di noi altre. Esatto, anch'io arrivo dallo spazio, ragazze, ve lo devo dire. Questo pianeta è andato e allora ci siamo chieste, ma perché non inquinarne un altro? Pianeta rosso, Marte, stiamo arrivando. Beh, scherzi a parte, la militanza del futuro, ma anche del presente, dovrà tenere conto dei cambiamenti climatici. Problema serio che devo dire che Milano ha preso proprio di petto, Non so se ci avete notato, non abbiamo più la nebbia, non abbiamo più la neve, ma in compenso abbiamo le Olimpiadi invernali. E di questo parliamo grazie alla presenza questa sera del CIO, Comitato Insostenibili Olimpiadi, quindi là sul Trabattello che ormai è diventato il cucuzzolo della montagna. Questa è una struttura concepita per il salto del trampolino, è stata così sobriamente rubata da Zame l'economia circolare. Così. Allora, il CIO si è costituito nel 2023, se non sbaglio, Elio fa così con la testa, fino al 2023, con tante realtà che ovviamente si stanno impegnando per denunciare quelle che saranno le conseguenze immancabili delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Elio, sei un rappresentante di questa rete del CIO, a te la parola. Grazie a tutte e tutti, buon 25 aprile partigiani e partigiani in ogni quartiere. Oggi ci tenevamo così a provare a tracciare un collegamento, un legame tra le lotte di ieri, tra la liberazione di ieri e le tante lotte di liberazione di oggi. Io proverò a parlarvi di quella che riguarda la liberazione delle nostre città e dei nostri territori dalla speculazione privata e dalla privatizzazione delle risorse comuni e delle ricchezze comuni. 80 anni fa, una delle poche insurrezioni popolari della storia di questo disgraziato paese cacciava gli occupanti nazisti e gli oppressori fascisti. Lo fece armi in pugno, nelle fabbriche, nelle strade di città e sui sentieri di montagna. Lo fece a braccia incrociate, lo fecero le operaie e gli operai, lo fecero i contadini e le contadine, nei campi, nelle nostre campagne. Ma lo fece anche il movimento di liberazione con una precisa idea di società in cui le comunità si sarebbero potute autogovernare, le risorse naturali collettive si sarebbero dovute destinare alla crescita comune, ai bisogni sociali, a garantire una vita degna a tutte e tutti, senza accaparramenti, saccheggi di territori e sprechi per i profitti di pochi. Ci piacerebbe poter dire 80 anni dopo che quell'eredità ideale è stata realizzata, ma non è così, o meglio, non lo è a livello di governanti, mentre ancora fioriscono dal basso numerosi movimenti di resistenza ecologica, popolare, territoriale, dalla Val di Susa del movimento Notav, alla Messina che si batte contro il ponte sullo stretto, passando per i tanti comitati, collettivi e comuni che negli oltre 400 chilometri di arco alpino interessati dalle Olimpiadi invernali del 2026 si stanno battendo contro la devastazione che quei giochi invernali già stanno causando sui territori. Proprio per fare un fronte comune abbiamo dato vita un paio di anni fa al Comitato Insostenibili Olimpiadi, per dire una cosa molto semplice, che queste Olimpiadi sono indesiderabili, lo erano ieri, lo saranno domani e sono soprattutto insostenibili. Le Olimpiadi non c'entrano nulla con lo sport e soprattutto rappresentano una gigantesca scusa per spostare redditi e ricchezze comuni dal basso verso l'alto, ancora una volta devastando e saccheggiando i territori. Le Olimpiadi sono un palcoscenico in cui a livello internazionale gli stati che come Israele e la Turchia commettono genocidi e crimini contro l'umanità, contro il popolo palestinese, il popolo curdo, si possono ripulire l'immagine nelle settimane dell'evento. A livello nazionale sono un volano, una scusa per privatizzare risorse nelle terre alte di montagna, così come nei terreni agricoli della provincia, nei quartieri e nei servizi sociali e pubblici nelle città. Parliamo di quasi 6 miliardi di spesa pubblica che non stanno portando ricchezza sui territori, ma stanno venendo spesi per permettere nuovi profitti privati. A Milano, la città, una delle città, una delle capitali delle Olimpiadi, dell'evento sportivo per eccellenza o di quello che dovrebbe essere tale, le Olimpiadi stanno causando l'accelerazione della privatizzazione, della chiusura degli eventi, degli spazi e delle infrastrutture sportive pubbliche, così come stanno accelerando l'espulsione di migranti, lavoratrici, lavoratori, precari e precarie che tengono sulle proprie spalle l'economia di questa città, ma che non si possono permetterci, non si possono permettere di viverci. Questo processo è stato inaugurato ormai 10 anni fa da Expo 2015 e le Olimpiadi del 2026 lo stanno solo accelerando. Stiamo parlando di oltre 200 opere infrastrutturali che vengono realizzate con fondi pubblici, ma oltre l'80% delle quali non saranno pronte per il febbraio 2026, ovvero il periodo dell'evento, dei giochi invernali, ma saranno realizzate dopo. Già questa informazione, questa cosa ci dice la scusa che rappresentano le Olimpiadi. Abbiamo anche nuove infrastrutture inutili come la pista di bob a Cortina, realizzata devastando un lariceto secolare, oppure nuovi impianti di risalita per il turismo invernale nell'epoca della crisi climatica, soltanto per permettere a un settore turistico che parassita i territori di continuare a sopravvivere grazie ai fondi pubblici, al sostegno pubblico. Tuttavia, se siamo qui è anche per dire che la battaglia non è persa. Se il grande evento si realizzerà e ha già iniziato a ferire i territori, beh, la battaglia si può ancora giocare e si può ancora combattere su quelle che saranno le sue eredità, su ciò che ci sarà a giochi invernali finiti. E quello che noi pretendiamo è che quello che viene realizzato con fondi pubblici, come il villaggio olimpico nell'ex scalo di Porta Romana, qua vicino, a pochi chilometri da qua, nella periferia sud-est di Milano, e che dopo l'evento dovrebbe diventare l'ennesimo studentato privato in una città che caccia e che esclude gli studenti a basso reddito, beh, diventi una struttura per l'emergenza abitativa in città, in una città come Milano che sta subendo la più grave crisi sociale degli ultimi anni. E vedete, e qui chiediamo anche l'altra cosa, ovvero l'altra nostra rivendicazione, che ciò che non è stato ancora realizzato ma che si progetta di realizzare coi fondi pubblici venga fermato e che quei fondi vengano destinati alla collettività, a istruzione, sanità, trasporto pubblico, al lavoro, a politiche per la casa, a Milano come nel resto d'Italia. Uno dei requisiti che il CIO quello vero, quello cattivo, il Comitato Internazionale Olimpico, il soggetto che assegna i giochi invernali, i giochi olimpici ai vari paesi, uno dei requisiti che il CIO richiede perché un paese sia giudicato idoneo a ospitare i giochi è la stabilità sociale, l'assenza di conflitti. Allora, tenendo fede alla memoria e alla storia partigiana, orgogliosamente divisiva, della resistenza antifascista italiana ed europea, facciamoci una promessa che da qua ai prossimi mesi, che ci separano dall'inaugurazione di Milano Cortina 2026, non ci pacificheremo e continueremo a lottare, renderemo i nostri territori, le nostre città in montagna, così come nelle metropoli, indesiderabili e inospitali per i signori delle Olimpiadi. Noi come CIO saremo in piazza il 1° maggio nella May Day Parade del precariato milanese e sabato 10 maggio nel quartiere San Siro per una giornata di sport popolare e di lotta per il diritto all'abitare. Buona liberazione a tutte e tutti, buon 25 aprile, ora è sempre resistenza! Grazie Elio. Grazie Elio. Come state? Allora ragazzi, adesso è un momento di un collettivo. Qua brulicano collettivi, è pieno, sarà collettivi. Colpa del poliamore, non so. Collettivo di cantautrici fondato nel 2022 da Laura B, Sue e Bea, da anni attive con i loro progetti musicali. L'idea è quella di fare largo alle donne nel mondo della musica e in occasione di questo 25 aprile il collettivo Dinamica Cantautrici in Movimento ci presenta il progetto Canzonette Partigiane, che è un omaggio, poi vi racconteranno loro, è un omaggio alle donne che hanno fatto la resistenza. A voi il palco! Le Dinamica! Un applauso! Eccole! Come va? Sempre alti questi microfoni per noi, eh? Ma che fighi che siete! Buonasera a tutte e tutti, fatevi sentire! Ok, parto io ragazzi, vai! Prima di suonare vi dobbiamo dire... Ecco, quindi due... Due cose. Caro 25 aprile, ora che sei diventato grande, vogliamo ancora una volta ringraziarti. Questa data ha costruito la nostra libertà, che oggi assomiglia a una signora di 80 anni, saggia, un po' fragile, con tanti ricordi da raccontare, utili a mantenerla viva e al centro di ogni scelta importante da compiere. Caro 25 aprile, noi di Dinamica Cantautrici in Movimento ce la stiamo mettendo tutta per far esprimere sorella libertà attraverso il riconoscimento del lavoro delle cantautrici che con parole e musica esprimono bisogni, emozioni, storie che racchiudono mondi innovativi e soluzioni. Il nostro regalo per il tuo 80° è questo progetto, Canzonette Partigiane, per non dimenticare il coraggio delle donne protagoniste della resistenza italiana, a nostro modo, attraverso la scrittura di canzoni inedite ispirate alle storie della loro lotta partigiana. Anche noi Dinamiche, a nostro modo lottiamo per creare spazi per la musica d'autrice, per ricordarci che la libertà di essere ed esprimere ciò che sentiamo e che siamo produttrici, autrici, musiciste, cantautrici non ce la può negare nessuno, che ognuna di noi ha il diritto e il dovere di esserci e di contribuire nonostante ancora la società tenda ad impadronirsi del corpo, delle parole e delle azioni di noi donne. Collaboriamo, discutiamo, a volte litighiamo, organizziamo eventi e conferenze per superare alcuni radicati cliché di genere e per creare rete tra di noi. Sappiamo, cara libertà, che sei stata conquistata con sacrificio e tanto coraggio ed è nostro compito mantenerti viva, proteggerti, sostenendo tutte le persone che nel mondo ancora non possono godere dei tuoi favori. Bisogna impegnarsi e lavorare ogni giorno insieme, creando occasioni di confronto, partecipando alle iniziative che ti sostengono e contribuendo attivamente, partendo dai piccoli gesti quotidiani e dalle grandi azioni concrete. Cara libertà, anche se iniziano a farti male le gambe e il tuo respiro inizia ad essere stanco, con l'aiuto di tutte e tutti crediamo che tu possa andare ancora lontano. Ci siamo chieste più volte quali siano le sfide dell'antifascismo oggi e ne abbiamo parlato con Laura Fussi, che è solo un po' più grande di te, perché era una bambina quel 25 aprile. Ma lei ha contribuito in un modo concreto alla lotta al fascismo e ancora oggi non perde la presenza nella mente e nelle parole delle persone. E abbiamo portato le sue parole con noi. La sfida è riuscire a ragionare con la propria testa senza imposizioni esterne. La sfida è poter avere dei sogni e sperare di poterli realizzare. La sfida è non essere indifferenti di fronte alle tragedie, per esempio a Gaza, di sapere prendere una posizione anche se questo può essere contro il parere della maggioranza. E ora, bambina resistente, per Laura Fossi. Sono piccola ma non ho paura del buio. Non gioco a palla ma faccio da spalla a mamma e papà. I miei compagni non sono di scuola. La maestra mi ha detto stai lontana se non ti vesti da piccola italiana. E mi ritrovo in questo viaggio. Non conta la statura, conta il coraggio. Non è una fiaba detta a memoria. Questa è la mia vita, questa è la storia. Strano, dormivo sul divano e sulle bombe a mano ed era tutto strano, ma forte e chiaro ed era tutto vero. Lottavo di nascosto contro l'uomo nero nella mia esigenza, era resistenza. Sono piccola ma non ho paura del lupo, cerco la volpe nella grotta con mamma e papà. E mi portavano sempre con loro, con mio fratello stretto nella mano e lascia passare per non farli scoprire. Mamma nasconde gli ordini in borsa, mio padre con gli amici al bar in piazza, parlando di lotta senza esclusione per la libertà e la Costituzione. Ed era tutto strano, dormivo sul divano sulle bombe a mano ed era tutto strano, ma forte e chiaro ed era tutto vero, lottavo di nascosto contro l'uomo nero nella mia innocenza. Occhi al cielo per salvare il mondo intero. Ed era tutto strano, dormivo sul divano sulle bombe a mano. Ed era tutto strano, ma forte e chiaro. Ed era tutto vero, lottavo di nascosto contro l'uomo nero nella mia innocenza. Era Si sente, grazie. Ci sente, alle sì. Dinamica cantautrici in movimento, grazie. Molto bene, adesso è il momento ancora del teatro, un monumento del teatro, il grande Renato Sarti, padrino di POC, con noi fin dalla nascita, ecco, anche lui è un animatore culturale, un regista, un attore fondatore di un altro presidio culturale, il Teatro della Cooperativa. Sale sul palco con Marta Marangoni e Alice Pavan con un estratto da un grande classico ormai che è Nome di Battaglia Lia. Lia fu una staffetta partigiana e quindi eccolo qua Renato. Scusate, noi siamo già Alice, quasi al petting. E Marta, a voi la scena, grande Renato. Un applauso! Ciao ragazzi! Ciao! Questo è per me. Mi sentite? Non vi ho capito bene. Mi senti? Oh, là. Allora. Prova il microfono. Prova. Ciao. La sentite? Non si sente. Questo mai. Mi sentite? Lei sì. Marta. Proviamo l'altro. Intanto che Marta si sistema col microfono, Niguarda. Il quartiere di Niguarda. Wow, eccolo! Oh. Madonna, quanti siete? Alla fine vi facciamo fare un bel coro, alla fine. Allora, il quartiere di Niguarda, dovete saperlo, quello a nord di Milano, insorge il giorno prima dell'insurrezione di Milano. Insorge il 24 aprile, non il 25, con un fatto luttuoso, una tragedia, un fatto incredibile che adesso ricostruiranno Marta e Alice. È la storia di una partigiana che si chiamava Gina Galeotti Bianchi, che era incinta di 7 mesi, ma non dico altro perché lo capirete da quello che dice lei. Il quartiere di Niguarda era nell'occhio del fascismo fin dal 1923, quando, per volere diretto di Mussolini, il re firmò un decreto che sciolse il consiglio comunale perché fazioso e partigiano. E noi siamo partigiani, sì o no? Non vi ho sentito bene. Buono. Sciolse il consiglio comunale, prima avevano cercato di assaltarlo, distruggerlo come avevano fatto in tutte le parti d'Italia con la violenza, dopo ce la fanno con la burocrazia. Ma io vi lascio ad Marta Marangoni, Alice Pavan, che raccontano l'ultimo momento, l'ultimo episodio di Gina Bianchi Galeotti, e alla fine collaborerete anche voi. Io non so se è giusto il momento dei ringraziamenti, perché me ne lunghissimo. Viva Lia! Come vogliamo. Uè! Mi sun vegia, il mio papà, l'era del 1890, l'hanno richiamato a militare, perché? Perché l'era un russo, un comunista, hai capito? Il mio papà la fa la guerra di Grecia, quella di Macedonia, poi quella di Caporetto, poi quello dei 40, ma quanti anni di guerra la fa? La fa più se guerra che vita, perché è morto a 57 anni, tu pensa se mi riancamò la guerra, che adesso se scoppia un'altra guerra, mi guarda, mi me pianti davanti alla caserma, ma è me fie a fare la guerra per i governanti, e il vanò, eh. Ah no, signore, mi dispiace, me disertur che guerriero, disertore direi tu, che parolaccia, sì, me disertur che guerriero, almeno nel morminga, me disertur o guerriero? Mei disertur che guerriero, che tanto il morminga, anche il gitem de morì, e adesso cosa faranno? Bombe di qua, bombe di là, bombe di su, bombe di giù. Comunque, tornando ai vecchi ricordi, arriva il fatidico 24 aprile del 1945. E mi è lì che è nata la risurrezione, come la chiami mi, la risurrezione di Milano a Niguarda. Il 24 aprile mia nipote Iole esce con la bicicletta per andare a delle riunioni, a non so quali messaggi da portare, stiamo aspettando altre compagne, tra cui la Gina Bianchi. L'insurrezione è nell'aria, 24 aprile. Piazzale Maciachini, pomeriggio presto, dobbiamo trovarci in bicicletta. Allora io in bicicletta, lei in bicicletta. Capisco subito che c'è qualcosa di strano, il modo in cui sale in bicicletta. Allora dopo qualche pedalata io... Lia, ma c'è qualche novità? Sono incinta. Incinta? Che bello. E di quanto? 5 mesi. E quando il bambino nascerà? Quando nascerà? I fascisti non ci saranno più. Di dove sei? Di Milano. Io sono di Suzzara, come mio marito Bruno Bianchi, che è in carcere a San Vittore. Sai, sono stata in carcere con lui, poi io e lui, diciamo, questo bambino lo abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto. Senti, fermati un attimo con la bicicletta. Adesso ti dico una cosa che, tanto la sappiamo solo io e te. Senti, domani liberano mio marito, ma non solo lui, verranno liberati tutti. Ma come fai a saperlo? Queste sono cose che non si dicono. Ha ragione. E ci diciamo tante di quelle cose in quei 10 minuti di percorso. Lei è un tipo fantastico. Senti gli spari. Vengono dalla Bicocca. Bicocca significa Pirelli, significa Breda. Sono i primi spari dell'insurrezione di Milano. Dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare in fretta. Lei ha una premura che va molto oltre l'incontro con le donne di Niguarda. Probabilmente deve portare l'indicazione dell'insurrezione a Niguarda. Qui succede qualcosa. Bisogna fare in fretta, non c'è un minuto da perdere. Accidenti a questo ospedale. Senti, Lia, sai cosa possiamo fare? Per arrivare in via Ermada possiamo passare da dietro l'ospedale, che è più sicuro, e non da qui che ci sono gli spari. Sì, io sono d'accordo con te che se si impiega lo stesso tempo senza rischiare bene, però vedi, dobbiamo anche prendere la strada che ci serve di più, perché non ho bisogno di dirlo a te, Lalla, ma è proprio in questi momenti che si vede il coraggio dei comunisti. Ho capito il coraggio dei comunisti, ma qui tra poco succede uno scontro, perché mi sa che sta iniziando l'insurrezione. Sì, ma non c'è tempo di fare la strada dietro l'ospedale, è troppo lunga. Intanto arrivano camion di fascisti, di tedeschi. Ad un tratto un gruppo di partigiani davanti a noi, saranno stati 4-5 compagni, non di più, urlano: giù a terra, terra, terra. Dietro arriva una camionetta di nazisti, arriva da dietro, ha una mitraglia, apre il fuoco a ventaglio su tutto, anche su noi due. Una donna ha fatto un giro su se stessa, sulla bicicletta, è caduta per terra. Me del Puggiollo, vedi bene, sento uno sparo, ho visto bene quella povera donna che cadeva lì per terra in via Graziano Imperatore a Niguarda, la Cadi Santo. Ha fatto un giro su se stessa, è andata per terra, piena di sangue, correte. Io vado là per vedere, ma sparano ancora i partigiani nella cinta, nella barricata per salvarsi, ma lei proprio per terra, proprio su se stessa. Io come mi alzo, la vedo per terra, mi avvicino, Lia, dai, Lia, tirati su, muoviti, Lia! Niente. Silenzio. Ad un tratto una donna al balcone, me la ricorderò per sempre, come mi vede che mi tiro su, si fa il segno della croce. Menù male, almenvina le salva. Ha capito che lei... No! Falciata proprio nel seno, nel ventre. Hanno sparato, hanno ucciso la Lia. Allora, grazie. Marta Marangoni, Alice Pavan. Grazie. Una pillola della storia di Lia, andate a leggere, andate a scoprire la sua Noi storia. Però prima di lasciarvi vorremmo una cosa da voi. Noi vorremmo che Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, si ricordasse in questa città come si ricordano di Garibaldi in Italia. Quindi adesso vi chiedo di fare un coro alla Nick Cave. Io vi dico, nome di Gina Bianchi, nome di battaglia Lia, nome di battaglia Lia, nome di battaglia Lia. Non vi sento, devono sentirvi fino a Niguarda, fino in Piazza Duomo. Nome di battaglia Lia, nome di battaglia Lia, nome di battaglia Lia. Grazie ragazzi. Renato Sarti, siate sobri con la birra, fatevene fuori tutte quelle che vi capitano davanti. Giusto. Sobrietà. Renato Sarti, Marta Marangoni, Alice Pavan, grazie mille. Partigiani in ogni quartiere, diversamente sobri e esatto. Sobrie. Allora, grazie mille a loro. Si torna alla musica. Ciao, arriviamo alla musica. Arriviamo, salve ragazze, salve. Alla musica, adesso si sta per scatenare l'inferno. Ecco, ballate ma non troppo. Ecco, abbiamo fatto dei casting in tutta Italia, mi dicevi, sì, eh? Per cercare dei nuovi talenti, poi lui, l'artista che sta per salire, ha scritto in DM a POC, ha risposto Gulli ha detto sì. Ecco, se vi state chiedendo che sia Gulli, è quello che ha rubato il trabattello, esatto, il trampolino olimpico, detto anche. Per cui sta per salire sul palco di POC il fondatore del collettivo Falafel Fezza Famiglia, che verrà armato solo di microfono, computer e tastiera laser direttamente da Rimini, anche se lui è nativo di Avellino. Tonino 3000! E si balla! Anche lui a ieri. Ai. Buonasera a tutti, io sono Tonino 3000 da Savignano. Grazie mille. We'll be right back. Grazie mille, grazie Milano. Buon 25 aprile. Vorrei chiamare qui sul palco il mio fratello, socio e spirito guida. Per l'Adriatico, per l'entroterra e per il mondo intero. Se puoi accendere anche questa spia qua di lato, per favore. Un po' di casino per il mio amico Jason Farfuglio. Chiesa Rossa e Jason Fai sembrava Alessandro Barbero. Questa era Morirò. Grazie Orfa, grazie mille. Un grande piacere per me essere qua e non voglio sprecare il tempo che ho parlando, quindi vi dico a tutti buon 25 aprile, buona festa della liberazione, sempre viva la resistenza. Grazie. Siamo un paese di esauriti. Gli italiani sono sotto stress. Vorrei solo correggere una piccola cosa. A me fa molto piacere essere qui, ma in realtà sono loro che mi hanno invitato. Io non ne sapevo niente. Grazie. Parliamo di un altro argomento. Prima uscito. dico sempre perché ci speravo. E se andava male poi sbandidolavo. Prima uscivo sempre perché ci speravo. E se andava male poi sbandidolavo. Ma cosa è successo? Ora mi sto annoiando. E nel frattempo sto sbandidolando. Oscillando. Grazie a tutti. Guarda la musica popolare quanto è bella, ragazzi. Io vivo sulla costa, io vivo sulla costa, ma quanto costa? Sulla costa, ma quanto costa? Io vivo sulla costa, io vivo sulla costa, io vivo sulla costa, ma quanto costa? Ma quanto costa? Ma quanto costa? Io vivo sulla costa, ma quanto costa? Giro sulla costa alle tre di notte, io giro sulla costa alle tre di notte, io giro sulla costa finta di niente, io giro sulla costa finta di niente, e finta di niente, finta di niente, io giro sulla costa finta di niente, e finta di niente, finta di niente, io giro sulla costa finta di niente. Dogana sulla costa tu non ti fermare. Dogana sulla costa tu non ti fermare. Io giro sulla costa tranca nelle tasche. Io giro sulla costa tranca nelle tasche. Prima della dogana tu fuma tutto. Prima della dogana mi fumo tutto. Io vedo la dogana un po' dappertutto. Io vedo la dogana un po' dappertutto. Chiama il cane, chiamalo pure. Ma una frega dei guaglioni della costa mia, si tengono alla larga dalla polizia. Mandusa tutto, mi apre il bagagliaio, Mandusa tutto, Mandusa nello zaino, non trova niente, la cianca nello zaino, finta di niente, finta di niente, finta di niente, la cianca nello zaino, finta di niente. Quanta fretta, quanta fretta, ma dove corri, ma chi t'aspetta? Quanta fretta, quanta fretta, ma dove corri, ma chi t'aspetta? Quanta fretta, quanta fretta, ma dove corri, ma chi t'aspetta? Quanta fretta, quanta fretta, ma dove corri, ma chi t'aspetta? Tosta. Ma quanto costa, ma quanto costa, in macchina, in macchina, in macchina, in macchina. Per l'Adriatico, per Milano, per l'Entroterra e per il mondo intero. Io vivo sulla costa, io vivo sulla costa, io vivo sulla costa, ma quanto costa? Ma quanto costa, ma quanto costa? Io vivo sulla costa, ma quanto costa? Hey! Grazie mille. Se non mi sbaglio è l'ultima? Qualcuno mi dice qualcosa? Io vado. Tengo una natura emozionale, sta a sentire a me, sono troppo emozionale. Cazzo mai lasciato pure te, il fatto è proprio che sono troppo emozionale. Do la colpa tutta a me, sono troppo emozionale, mi puoi manipolare. Quando lasceranno pure te, ricordati di me e non ti emozionare. Quando lasceranno pure te, ricordati di me e non ti emozionare. Tanto lasceranno pure te, yeah. Tanto lasceranno pure te, yeah. Poi rilasceranno pure me, yeah. Poi rilasceranno pure me, yeah. Tengo una natura emozionale, sta a sentire a me, sono troppo emozionale. Cazzo mai lasciato pure te, il fatto è proprio che sono troppo emozionale. Do la colpa tutta a me, sono troppo emozionale, mi puoi manipolare. Quando lasceranno pure te, ricordati di me e non ti emozionare. Tanto lasceranno pure te, yeah. Tanto lasceranno pure te, yeah. La mia vita è un ingorgo, vivo solo su uno scoglio. Sono nato in ascensore, poi crollato in poche ore. La mia vita è un incrocio e il semaforo si è rotto. Pensa a tutti che sia verde, poi si scontrano con me. Ricordati di me, ricordati di me. Tanto lasceranno pure te, yeah. Poi rilasceranno pure me, yeah. Grazie mille, se c'è tempo faccio l'ultima. C'è tempo? Grazie mille. Grazie ancora, è un piacere essere qui. Se volete poi abbiamo un banchetto piccolino con delle maglie, se volete ascoltare la musica cercate Torino 3000. Grazie mille, il prossimo e l'ultimo brano e per fortuna è un brano di Jason Farfuglio. Questo è un brano di Jason Farfuglio. Ah, Jason vai, Justin Trullo. Jeffrey Bergoglio. Ma cosa dici? Ah, paranoie. Ma non sarà molte. Le parole. Questa è solo per Ciccio. Non sono molte le parole. Io sto senza parole. Sono molte le parole. Io sto senza parole. Ma non sono molte le parole. Io sto senza parole. Non sono molte le parole. Io sto senza parole. Bamba e branda magari qui, ma dopo il turno di guardia resto sveglio fino alle tre a rammendare una maglia. Ehi Gian Brandon vieni con me, frugami dentro la barba, ma l'accendiamo solo al mio tre, che il brigadiere non guarda. Torci cuore, mannaggia te, abbagliati all'ambulanza, spalmi un branca sopra di me, ma poi il vicino mi pialla. Non sono molte le parole, io sto senza parole. Non sono molte le parole, io sto senza parole. Ma non sono molte le parole, io sto senza parole. La mia vita è un gorgo, vivo solo su uno scoglio. Sciamani in bomba in Malawi, bevo un introio a Sarsala, ballo in bagno fino alle tre, ma poi il vicino mi pialla. Ehi Gian Brandon vieni con me, frugami dentro la barba, ma l'accendiamo solo al mio tre, che il brigadiere non guarda. Torci cuore, mannaggia te, abbagliati all'ambulanza, spalmi un branca sopra di me, mentre fai match con un panna. Non sono molte le parole, io sto senza parole. Non sono molte le parole, io sto senza parole. No, non sono molte le parole, io sto senza parole. Non sono molte le parole. Caso avete capito qualche cosa in più sulla stima, il consenso, la simpatia. Grazie mille, Jason Farfuglio, Torino 3000, alla prossima, se volete abbiamo le magliette qua, se no ci vediamo sull'internet, buon 25 aprile a tutti. Grazie. Radio Milano, Torino, Torino. il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente. Questo che abbiamo appena sentito è l'annuncio, era l'annuncio della liberazione, la nostra, ecco. Ecco, noi vorremmo tanto poter celebrare anche il giorno in cui la Palestina verrà liberata. Ecco, è una causa che sta molto a cuore a POC. Anche a sì, noi. Esatto, Palestina libera, l'abbiamo urlato anche quando abbiamo organizzato a Leoncavallo a febbraio la raccolta fondi per la Palestina. Il palco di POC dell'anno scorso è stato interamente dedicato alla Palestina e noi vi chiediamo un ultimo sforzo di attenzione, perché arrivano due interventi molto delicati che riguardano questo tema, poi dopo andiamo avanti a ballare e a cantare, però cominciamo un attimino. Ci concentriamo, appunto... respiriamo, riduciamo i battiti, cominciamo da Alessandra Pasi di Nudo e Crudo Teatro, che ci presenta un pezzo dallo spettacolo Palestine. Ale! In un tempo lontano, prima che la storia marciasse per le colline e annientasse presente e futuro, prima che il vento afferrasse la terra per un lembo e le scrollasse di dosso nome e identità, un paese viveva tranquillo, di fichi e olive, di frontiere aperte e di sole. Era la terra di un popolo che lì viveva da secoli senza averla mai posseduta né aver mai creduto o desiderato di possederla. Un giorno, da una tempesta che infuriava all'orizzonte, apparvero gli stranieri. Siamo tornati nella nostra terra, questa è la nostra terra, Dio ce l'ha promessa, il mondo infine ce l'ha restituita. Il popolo protestò, nessuno ascoltò. Chiese rispetto, nessuno ascoltò. Pretese giustizia, nessuno ascoltò. Ribadì i propri diritti, nessuno ascoltò. E così accadde l'inevitabile. La guerra di chi combatteva per non perdere la propria terra fu vinta da chi lottava per conquistarsi una patria. Per 3 giorni e 3 notti il popolo cacciato camminò su e giù per le colline impietose, sotto il bagliore accecante del sole, l'occhio invisibile dei cecchini. Finalmente il popolo riuscì a raggiungere una terra al di là del fiume. La gente del posto lo aiutò come poté, offrendo cibo, coperte, acqua. Diedero al popolo qualche tenda e una striscia di terra arsa ai confini dei territori occupati dagli stranieri. Sorse un campo profughi, dalle cui colline il popolo cacciato poteva guardare le case a cui non sarebbe tornato. Nel frattempo gli stranieri prosperavano e, dato che prosperavano, crescevano e si moltiplicavano e crebbero e crebbero e crebbero e cominciarono a spingersi oltre i confini naturali delle terre un tempo abitate dal popolo. È una questione di crescita naturale, dissero. Il popolo protestò, nessuno ascoltò. Chiese rispetto, nessuno ascoltò. Pretese giustizia, nessuno ascoltò. Ribadì i propri diritti, nessuno ascoltò. E così la rabbia crebbe e crebbe e crebbe fino a esplodere inaspettata di terrore cieco, folle e disperato, e la colpendo colpevoli e innocenti, unendo i confini di vittime e carnefici, facendone svanire i confini. È una questione di crescita naturale, disse il popolo. La risposta degli stranieri fu rapida, cancellò le tende, i corpi, la memoria dei conflitti precedenti, un diluvio di piombo fuso e fosforo bianco. Gli stranieri fecero il deserto e lo chiamarono pace. E non contenti, cominciarono a costruire un muro per proteggerci, perché ciò che è accaduto non accada mai più. Ma per quanto fosse alto, lungo e spesso, quel muro non bastava mai a proteggere gli stranieri. Cominciò a crescere e crebbe in altezza, crebbe in lunghezza e crebbe e crebbe e crebbe fino a quando diventò una prigione per il popolo e la sua fame e la sua umiliazione. Ma erano un popolo antico. Avevano visto andare e venire generali con i loro eserciti, re con le loro corti, profeti con i loro dei, e sempre erano rimasti. E anche se sapevano che sarebbero morti profughi sapevano anche che quel muro, come tutti gli altri muri prima di lui, sarebbe crollato. Così, nel frattempo, continuavano a oliare le chiavi delle loro case, le case che li aspettavano dietro al muro. Palestine, grazie. Alessandra, grazie Pasi, Nudo e Crudo Teatro, grazie. Grazie. Un altro tassello grandissimo di partigiani in ogni quartiere, Alessandra Pasi. E grazie a questa intro poetica arriviamo appunto a presentarvi sul palco una ragazza che è un'artista visuale palestinese. Vi chiediamo un po' di attenzione, anche perché appunto verrà tradotta, quindi parlerà in arabo. Lei è Gazawi e è un'attivista anche politica per i diritti del suo popolo. È venuta in Italia per studiare con una borsa di studio, ha chiuso gli studi ma è rimasta bloccata qui per via della guerra. Si chiama Yasmin Ajarba. Vieni Yasmin, vediamo con quale microfono. E c'è Valentina che invece, guarda Vale, se vuoi andare di là, che si occuperà della traduzione. Grazie per essere qua. Grazie. Hello to everyone. I'm Yasmin Al-Jarba. I'm Palestinian di Gaza. I just came to Italy because I have school lecture here in Milano, but now the war was starting when I'm here in Italy, so it's like meaning until now I'm blocked in Italy. Non si sente? Ok. Sono Yasmina, sono una palestinese di Gaza, ero qui in Italy a studiare, e quando è scoppiata la guerra e sono rimasta bloccata in Italia. Yesterday I just saw a video, it's coming from my country, especially in Gaza. There is a children when they bombing the criminal Israelian. So this child, he have like a half of his body separated in the roof in another house. The bombing in another house, but they found this children in another place. His body is a half, he's died, but he have like a half body and another body. Ieri ho visto un video di bambini a Gaza spezzati a metà dalle bombe, nel senso che c'era la metà di un bambino su una casa e l'altra metà su un'altra. Era stato tagliato a metà. A lot. Now I don't know where is the anti, where is the fascist is going. At first we have the fascist in Europe, in Italy, not in Italy, in all the world, and we know like about Hitler. But now we have the fascist of the Israeli Zionist. Io non so dove vada il fascismo nel mondo. Ora abbiamo, in questo momento, abbiamo la forma di fascismo sionista israeliano. Now they just not using the bombing inside Gaza. No, also they using the starving of the people, and they didn't let to the food go inside Gaza. So and also a lot of people die inside Gaza. Also, even it's like a heart attack inside. If she was scared about her children, she die. Non ci uccidono solo con le bombe, con le armi, ma anche affamandoci e anche con attacchi di cuore, perché le persone sono spaventate per quello che potrà succedere a loro o ai loro figli. I don't know where is the go this world is going, because we have fascists before, but now we have the modern fascists in the world, the Israeli fascists in this world, and they control everything, and we cannot stop them to do this fascist. Non so dove, questo, dove il mondo stia andando, adesso in questo momento abbiamo il fascismo in israeliano e non so, non c'è modo di fermarlo. We need from all governments in Iriop or any country in the world to stop sending the army and bombing to Israel to stop this genocide inside Gaza. Questo era chiaro, forse. Ok, they understood. Grazie. So, the first things, we don't want to let the people just ignore what's happening inside Gaza, because this genocide, it's like 1 year and 7 months, it's going 2 years, and we still watching the people inside Gaza is going, what we are waiting, 2 million to be die inside Gaza. I faced 5 wars in my life, but this is the first war, we cannot control it in the world. Non so dove stia andando tutto questo, non so come fermare tutto questo, dovremmo, io non so che cosa posso fare per fermare tutto questo. So, if we need to fascist to end, we must stop the Israeli criminal and from Palestine, and we want to remove all them outside of Palestine, because this is the Palestinian land. It's not Israeli and Palestinian land. I come from Gaza, and I cannot say there is two country inside this country. So, anti-fascist, anti-Zionist, libertà Palestina. Grazie. Grazie, grazie. Grazie Yasmin. Mille, grazie mille. Yasmina Jarba. Grazie anche a Valentina. Ricordiamo che l'opera di Yasmin, potete ammirarla da questa parte, alla destra del palco, dal vostro punto di vista c'è un banchetto dove appunto è presente. Grazie. L'opera di Yasmin, che come si diceva è un artista visuale. Allora, lo state aspettando? È la voce storica dei 99 Posse. Ma che cosa dobbiamo dire d'altro? Tra l'altro, a quanto pare è la prima volta sul palco di Pock, quindi è un bel regalo per i 18 anni di partigiani in ogni quartiere. Demetra, ma tu ballavi su Curre Curre? Ma certo, anche se è difficile correre sui tacchi a spillo, ma comunque sì, certo. Tra l'altro, fino a 2 ore fa, pensate che era a Casacervi, quindi nella bassa pianura reggiana. Ora è tutto per noi e per voi. Ozzulu! Buonasera Milano. Buon 25 aprile a tutte e a tutti, a chi si colloca altrove. C'è stato un momento della storia della musica italiana in cui non c'erano ancora le produzioni discografiche, e naturalmente non c'erano neanche le case discografiche in mezzo. C'era solo tanta voglia di comunicare, c'erano tanti DJ, tanti sound e tanti MC che si contendevano il microfono per dire la propria. Quello che vi vorrei fare assaporare stasera era quell'atmosfera, quando tutto iniziava. Napoli, creatura tutta da me, Zanavi, Napoli, cresciuto che pippate cucai, Napoli, guadagno che sa fanno l'eroi, Napoli, a scuola non ci sono mai potuti, Napoli, pusciuri al rindo da sì, Napoli, affiliate rinda cocca fammi, Napoli, quando c'era sulla polizia, Napoli, e signora fanno sa più tranquilli, Napoli, nessuno più lo scippo porzellì, Napoli, i ben pensanti votavano di c, Napoli, e i camorristi votavano in passì, Napoli, e si che lo dovutavano ma sì, Napoli, ma mezza vi continuano a morire a Napoli, ma tenimo solo pizio mandolina, tarantella, canzone sole, mandolina, Napoli s'amora dare luce fina, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, Magnelli ci è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacche scassate, famiglie disgregate, a Torino, Milano, napolitana, terrone ignorante, magno do sapone, lavato con le grande, tornate in una casa felice e contenta, ci hai fatto per maleare e non ne ha avuto niente, però sinceramente, dico sinceramente, dopo la mentà che una macchina patente, ma rindo Parlamento, ci tenono sempre rendo Parlamento, non si scordano mai niente, non si scordano ad esempio coordinamento che lo sbatte sempre in faccia i problemi della gente, immediatamente dico immediatamente, mannano in broda con una cricca e malamente, giunto da Roma somma tutte nubiez, coppa prefettura va a fognare coppa munnez, giunto da Roma somma tutte nubiez, giunto da Roma ed è venuto a Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. The children I'm in love, children I'm in love, children are the children are the children I'm in love, the children I'm in love, children I'm in love, children are the children are the children I'm in love, creature nate in Cile, creature in Palestina, mitragliatrice o bomba hanno fatto la stessa fine, creature irachene, morta a centenaria, sotto il bombardamento, l'aereo americano si tu tiene, un figlio che cresce forte e sano, pensa che nel continente africano, per mezzo del colonio, per mezzo dell'imperio, realismo, per mezzo con che strana concezione, socialismo e creatura, morono e fanno malattie, cocca vuota e cira pura, polizia, polizia di un governo funzionale a quello che chiamiamo nuovo ordine mondiale, creatura lo Vietnam e l'Afghanistan e Cuba, Rogana e pure lo Senegal, padrone, ro nord fanno guerre, si arricchiscono, i padri soffrono, mamma si disperano, ONU fa UNICEF, qua qua qua qua, senta nove nove posti e non c'è sta niente da fa, credi a noi non è mancanza d'altruismo, a colpa è tuo capitalismo, a colpa è dei padroni, a colpa è l'arrivismo, a colpa è del fondo monetario internazionale, a colpa è da banca mondiale, a colpa è da banca mondiale, the children I'm in love, children I'm in love, children are the children are the children I'm in love, the children I'm in love, children I'm in love, wow, wow, wow, wow, bomboclat! Grazie, Wagyu! Ai controlli c'è un Panda Clan, improvvisatosi DJ, al quale vorrei rivolgere vorrei girare una parte del vostro affetto e del vostro calore. Si sta cimentando per la prima volta nel ruolo di DJ. È tutto una prima volta, ok. Il prossimo pezzo è autobiografico, vai. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo, e si vuole parlare con me, da sta zitto. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo, e si vuole parlare con me, da sta zitto. Senti che puzza, scappano i cani, stanno arrivando i napoletani. Cos'è il razzismo? Noi lo sappiamo e non lo dimentichiamo. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani ce ne sono tantissimi che sono proprio new. Chi siamo noi? Noi siamo quelli che pure new mi chiamano Zulu. A me pure a Napoli mi chiamano Zulu. Arrivai con un barco nell'area nord, ne so già su. Di merda sulla pancia il mio tatto. Se mi devi offendere impegnati di più. Ogni volta che passa sette sente murmuriamo per me pensa che spacciamo quanti cosa l'avessi spiegato che su figlia bucchina che parla non sapono cazzo che sono che magari su spiega per niente parla no non c'è la statua di giocà la sposta che bocca e a roba che sposta di ama che pulima fa tu mi passa tra quella che capa e che cazzo invizzata fu paletto con tutto essere Zulu è la mia unica virtù il resto sotto i fetti per lo più virtù le cose più gustose stanno nel sottomenù a papulia con morrauta quando ero in gioventù perciò se mi devi offendere impegnati di più non ho tempo da perdere non con la tua tribù se stai sotto io sto su se vai sopra vado giù sono la tua nemesi non la tua servitù a me pure in Africa mi chiamano Zulu arrivai con un barco nell'area nord ne so Gesù terrone di merda sulla pancia il mio tattoo se mi devi offendere impegnati di più oggi non la faccio buona manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me di sta zitti oggi non la faccio buona manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me di sta zitti oggi non la faccio buona manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me di sta zitti oggi non la faccio buona manca Gesù Cristo figura figura figura figura figurati tu a me pure a Napoli mi chiamano Zulu arrivai con un barco nell'area nord mezzo Gesù sulla pancia il mio tatto se mi devi offendere impegnati di più boom grazie il prossimo è un grande classico di tutte le dancehall dalla fine degli anni 80 fino alla metà degli anni 90 e ancora oggi si suona continuamente è il beat di Murder She Wrote sul quale io credo di avere scritto quasi metà del primo disco dei 99 Boss tra tutti i pezzi che ho scritto su questo beat quello che è venuto meglio è quello che vi faccio sentire Guaglio tu me l'era un documento, tu me l'era. Guaglio tu me l'era un documento, tu me l'era. Posso le ca, oui, oui, posso le ca, posso le ca, oui. Passaporto, patente, carta d'identità, un bello documento, prima o poi tu me l'era. Un bello documento per ti identificare, un bello documento, ya mannaggia, ya cucava giù, tutta giornata, atto controllà, riunione cortei, centri università, non ce la faccio più, da vai me a cucca, a tienna una mamma, vi affatica, ma su vizia che cucazzi, te la già palua, posso documento e fatti identificare, sento documento che ti piace, dal lamento documento, tu me l'era. Song, song, radicos, to voglia dicere, to voglia canta. Scendo documento che ti piace dalla mente, documento non voglia na. Me ne passa po' cazzo, radicos, to voglia dicere, to voglia canta. Danno fottere, mazzata, danno fottere a galera, nemo come metta nome, amo in non è maniera. Mo chiamo un faccio cazzo su marone da sarina, se da pozza manca più, cago cazzo ogni mattina, allora a mia moglie cerco documento. Ma va bene che ci sono più contento a mio figlio se cerco documento ma guarda in da cornola e non capisce niente pure sul me cerco documento ma cago sotto il senso caccio immediatamente pure sul me cerco documento chiamo terminale ma controllo il precedente sento documento che ti piace dalla mente documento non voglierà me ne passa po' cazzo radicos tu voglia dicere e tu voglia cantare sento documento che ti piace dalla mente documento non voglierà me ne passa po' cazzo radicos tu voglia dicere e tu voglia cantare mi sveglio la mattina ripetutamente mi sento una mappina ripetutamente ci vorrebbe una aspirina ripetutamente una cosa più potente ripetutamente vado là in cucina ripetutamente nel frigo non c'è niente ripetutamente un dolore insistente ripetutamente nel corpo e nella mente ripetutamente il fumo non fa niente ripetutamente te rica niente niente ripetutamente giornata produttiva giornata divertente giornata ripetuta ripetutamente mente ripetuta ripetuta ripetuta brr, brr, ripetuta ripetuta ripetuta mente ripetuta ripetuta ripetuta brr, brr, ripetuta ripetuta e fratello su tu non una mano non andare poi venne cava che loro non tenne una casa fatica per mezzo che hanno già mangia loro sono un culo facendo fatica che noi non volessimo fanno se giovane visto sulla non il sistema se le ramanda nel nostro fottuto pianeta da un intaccio alla popolazione mondiale, salendo con me nel nudo l'orione che quello con cui dovrebbe campare. 400 molti miliardari, signori, per ricchi del nostro pianeta, possiedono quanto guadagnano un anno, un po' e mezzo umanità. Cambio documento, si nuovo talamento, documento tu me li ha. Songa, songa, radigos, tu voglio ricere, tu voglio cantare. Rapaniella, rapaniella, la rapaniella, rapaniella, la rapaniella, rapaniella, la rapaniella, la la la. Sta gente fanno i tuosti, è vero comunista, bandiera spilletel, maglietta antagonista, ma tutti capoposto 7 aprile l'hanno vista, mannavano in galera i frati antagonisti, compagna rete sbarri in galera imperialista, per mezzo agli interessi del partito comunista, e si spartirà in aria che la democrazia cristiana, partito che mettete bomba a piazza Fontana, bombo clat! Grazie a voi! Erano così le danzoli, i beat finivano, il cantante andava avanti, poi si guardava col DJ, DJ, ma mo che piezza viene? Eh? Az! Ok, questo è un brano, diciamo, su un argomento al quale sono particolarmente legato. Fumo solo marijuana, fumo duro e puro duro come la katana, fumo come fosse sempre fine settimana, dura finché dura e poi mi fumo la katana. Non regalarmi fiori perché me l'ha già fumà, tu regalami un giorno solo si se può cantare, e non rompere le palle con le storie dei problemi, che i problemi stanno solo quando non si può fumare. Non si fuma, non toccarla e tantomeno se ne parli, qua di meno non si fuma e quantomeno se ne parla, è solo di non farla che nemmeno se ne parla. Di meno qua si fuma solo quando non ci sta. Ganja mota, marijuana, erba, cannabis, weed, bomba creme, bomba mane, chi sta meglio mi sapì. Ganja mota, marijuana, erba, weed, cannabis, dove porti vagagliane se non ti piace qui. Marijuana, belle care, che fatica te pianta. I can't get enough of you, baby, senza te non posso sta. Marijuana, vita amara, senza te potrei fumare. I was made for loving you, baby, marijuana libera. Gancia profumata, taggio sempre amate, ti invito questi nuovi fumatori a non fumare. Tanto non vi piace, tanto non capite, aumentate solo prezzi, a calata qualità. Fumi solo per sapore, per favore non fumare. Non lo reggi, per stai male, meglio si deve accoccare. Non vendiamo niente, volessimo fumare senza fa tarantelle, con decoro ed eleganza. Che già la moto è poca, e poca moto è brutta cosa. E la mia vita è indecorosa, solo quando già aspetta. E quando non si trova, ma già metterà a cercare. Perciò fallo per amore, per favore, non fumare. Ganja mota, marijuana, erba, cannabis, weed, bomba, creme, tromba, mane, chi sta meglio mi sapì. Ganja mota, marijuana, erba, weed, cannabis, tu vai forti, paga chiane, se non ti piace, quit. Marijuana, belle care, che fatica te pianta. I can't get enough of you, baby, senza te non posso sta. Marijuana, vita amara, senza te potrei fumare. I was made for loving you, baby, marijuana libera. La marijuana nel nostro paese è ufficialmente illegale perché fa male, ma il motivo reale secondo me è l'esatto opposto. La marijuana nel nostro paese è illegale perché ha delle potenzialità curative, e questo è il motivo per cui è illegale, perché potrebbe sostituire in poche settimane l'80% dei farmaci da banco che arricchiscono le compagnie farmaceutiche senza risolvere un cazzo della salute delle persone, cosa che invece è stato dimostrato che la marijuana può risolvere. E ognuno se la potrebbe coltivare a casa. Io credo che sia questo il motivo vero per cui questa pianta miracolosa è così osteggiata dai governi. Detto ciò, Il prossimo pezzo è un salto. Purtroppo il tempo ridotto di questa scaletta non mi ha permesso dei pezzi di liaison tra l'uno e l'altro. Si passa dalla marijuana alla Palestina e alle periferie senza soluzione di continuità. La Palestina e le periferie che cosa c'hanno in comune? Che s'amore tutti i giorni e non è giusto. Giovanna Palestina. Voglio unire secondi piano, se vega sin de quattro via, terza tre figli, buona famiglia, niente da perdere a parte che via, stava sotto botta quando una volta ero vista in da televisione, un'operazione di polizia in Palestina, ero pensata, esagerata, creature che bottano e preda contro i carri armati, bandiere in mano, volti coperti, tutti che corrono. Giovanni era proprio convinto che cose così qui da noi non succedono e se succedessero, Giovanna Palestina stessa là, sempre andando insieme a tutte compagne, prima linea, nessuno l'avrebbe fermato, non certo gli spilli che neanche allo stadio ci hanno mai provato. Giovanni era proprio convinto, inebriato, Sirician, o barzulletta cattata in Doriona de Maghreb, o mezzo preparato sotto se sentivo re. Era proprio convinto che secondo gli anni era tale quale come un Medio Oriente. Tutte le sere, tutte le mattine cantava, faccia finestra lucava e nessuno teneva che dicere niente. Che non schiara mai mattina, che non è secondo gli anni a Palestina. Vai per Nablus, tu scambia, ma non sponde, non si via Palestina. E pareva assai lontana, su gamba senza rimane Palestina. Ma ora secondo gli anni, mi ti prende in mano come a Palestina. Amica in nera. Come a Palestina, Giovanna riceva. A vita è nera, a vita è nera, Giovanna riceva. Una mattina Giovanna scendette, ha avuto a 3 lotto con motorino, ha pigliò poche fumi in de pelle, solito giro, solito beat. E casa dei buffo, c'ha le bagolotto, c'è lo stuno, c'è niente. O terza munna, 33, casa nuovo, pastore, ma niente, solo. Faccia peruto, morto sparato, posti di blocco, H24, per cui c'è una tappeta a carrè. Mancano solo qualcuno che botta nel prete, para Palestina in da televisione. Va già fasci e sovra culo, a uno, senza motivo. E a così che pensava Giovanna, non era cattivo, era solo esaurito. Niente meno che manca una canna, sa fai, al centro sa fanno e muovete, su figlia bucchina, ma mamma sentite. Uffa, vero palestino con me, tante parole non ne capite, casa buse su piscanavit, o disagio mi trovo a casa, si passata ne chiuso l'uscita, lacrima all'occhio, un coppa stradona, 150 all'ora, al posto di blocco che lo fermava, a paletti si mancava retta, un bastardo cacciaia a pistola, o ognuno teneva laggiù. Canu schiara mai mattina, canu ne secondo gli anni a Palestina. Vai per Nablus per scambia, ma non sponde, non sti via Palestina. E pareva assai lontana, su campa senza rimane Palestina. Ma ora secondo indiana, mi ti prende in mano come a Palestina. O vogliono tenere ragione, voglio. Cambia, ma non sconda, non si via Palestina. E pareva assai lontano, su gamba senza rimane Palestina. Ma pure a secondigliana, vita se ne fui a indemmano come a Palestina. Ci sono terre che si lasciano amare solo con il sangue. La Palestina è una di queste. E tutte le nostre periferie ci assomigliano. Questa che vi faccio sentire adesso è una canzone che oggi abbiamo sentito parecchio e in tutte le salse. A me piace presentarla come la prima canzone che ho imparato a memoria quando ero piccolino. Mi ricordo ancora, stavo sulle spalle di papà. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. The drum and the bass. Figattini inamidati, tutti tutti dentoriti, se ne vanno per la strada, tutti fieri ed impettiti, si sentono virili, atletici e puristi, merda secca al sole, poveri fascisti, la domenica allo stadio, tutti a sfogare, frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale, sì signore, mi dispiace, ho fatto male, cala la notte, messi a posto le cartelle, reggo le calzoni con due comode pretelle, rasano la testa, l'anfibio bene mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra, drogato negro procio comunista pervertito, terrore banca bestia stato maso travestito, è inutile nasconderti, sarai individuato, nel cuore della notte sarai sprangato, 20-1 è la tua forza, fascio infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, da fivere in faccia, non serve a niente, la tua buccia di merda ti distingue tra la gente, c'è un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero sparo a vista, c'è un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero muschiat. If the kids are united, never, never be divided. If the kids are united, never, never be divided. If the kids are united, never, never, never, never be divided. If the kids are united, never, never be divided. Grazie. E mo, visto che siamo in questo momento di ricordi di bambini, vi faccio sentire pure la prima canzone straniera che ho imparato a memoria. Ero sempre piccolino e sempre sulle spalle di papà. Questo mo quale sarà? De pie cantar che vamos a triunfar, avanzagna, bandera se unità, e tu marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie luchar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate saltarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gritando adelante, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad de norte a sur, se movilizará desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya, anuncia al porvenir de pie, luchar que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardientes batallones, sus manos van levando a justicia la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando. Facendo soltanto perdere tempo e non vi preoccupate che ve lo mettiamo in conto e non ce lo sconto, devi scontare l'affronto quando ti incontro e di te mi ricordo il leone del commento, un borsacchiotto nel reale tale quale al carceriere che trovai a Poggio Reale, ma non eri ancora nato quando uscivo di galera, oppure c'eri ma giocavi ancora con la plastilina, oppure alla mia età magari sei più vecchio, siete tutti uguali, fa lo stesso, fenomeni da branco senza tempo e noi vi prenderemo uno per uno come abbiamo fatto fino adesso. Boom! Grazie a you. Siamo arrivati alla fine. C'è l'ultimo pezzo che è un tentato omicidio. Cioè voi state per assistere in diretta come i Panda Clan tentano di ammazzare Zulu con un pezzo che è stato scritto intorno ai 90 bpm e stasera eseguiremo a 120. È la canzone che narra le gesta del ragazzo che corre. Pull up, fermala. Si è perso un cane corso, credo di aver capito questo. Grande, grosso, l'hanno trovato, è lì. Vai. Attacca, maestro. Due, due, nove, uno, nove, nove, uno. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato. La gabbia sta facendo reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia, combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Curro, curro, vaglio, curro, curro, vaglio, io. In un paese neutrale hanno diversi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché non la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, waglio, e di una fragilità, waglio, io, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento lo sono, forse un licenziamento in tronco lo padrono, forse una risata in faccia, un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no, tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità, ti fa vivere una vita che per altra assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto e odio mosso d'amore, d'amore, voglio, curro, curro, voglio, curro, curro, voglio, io, io, io, curro, curro, voglio, curro, curro, voglio, io, curro, curro, voglio, curro, curro, voglio, io, io, io, curro, curro, voglio, curro, curro, voglio, ok, prima mi chiede bombe popolette a me, mamma chiede ma non vuole si va chiedo perché, mamma è guardia a casa, sta vetta per te, è in spazio popolare, non è buono perché, perché contro culturale, magari perché, rompo cazzo troppa gente, sì ma allora perché, ma vuoi rompere o cazzo, no, pure a te, ma se andò a fare una battuta io faccio buono perché, ma come solo il tuo cazzo, punto su le tue pareti, figuriamo se senti che ti naricerà a me, strunciate 40 anni potere perché, la gente te ne fa, messo fa strunciate a te, tu mi mando cellerina, ma scommere a me, ma non passo magari nel mondo dico, oh, in me, perché non mi fai più male, giù un'altra, cari. Curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio, curro, curro, vaglio, fanno capace. Se mi vecchio che non trova una pace, dice poco manna non ci piace, per te maracca. E mi sembra sicuro mio mondo così ci dispiace. La sua musica non ci si addice, ma ti me radice lontana da ca. A te non serve a Luca. Combat reggae, I see the light. Combat reggae, roots of my style. Combat reggae is the reason why I believe I can live, I can die. I combat reggae, I see the light. Combat reggae, roots of my style. Combat reggae is the reason why I believe I can live, I can die. Ay, ay, ay. Niente può cagnare fino a che non cagniamo tempo. Niente può cagnare, dirigo, niente può cagnare. Boom! Grazie! È stato bellissimo. Mancavo da Milano da un po' di tempo, ma una Milano così mi mancava da tantissimo. Siete una meraviglia da vedere. Questo futuro non è stato scritto proprio da nessuno. Siamo noi che lo dobbiamo scrivere e lo scriveremo come si deve. È una promessa. Grazie, Guagliù. Buon 25 aprile in ogni quartiere. Zulu. Grazie, oh Zulu, grazie mille. Grazie. È il momento dei ringraziamenti, sì, ragazze, ragazze, è il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo i banchetti, le associazioni che sostengono POC, i volontari che animano la piazza. Quelli che stanno alla Cambusa. Cambusa. Il doposcuola Nori Brambille Giambellino, sì, che è sempre alla ricerca di volontari, ha fatto volantinaggio anche fra di voi. Così come anche il collettivo di POC cerca sempre dei volontari. Ringraziamo la Lapide, la cucina del Torchiera che è risorta, cosa che non sono in grado di fare tutte, eh? Il Papa è morto. Papa è morto, lapide, vabbè. Le ha dato 5 giorni invece dei canonici. Vediamo se lui riesce con quella giunta di 2. 2 giorni in più. Va bene. Vabbè, secondo me, vabbè, grazie a questa piazza antifascista fantastica. Ovviamente. Grazie ovviamente al collettivo di partigiani in ogni quartiere. E ecco. Chiamiamo sul palco membri del collettivo, eccoli. Ilenia. No, e Ilenia e la Ile, vi lasciamo la parola per insomma due parole su questo 25 aprile che ci ha portato anche una grossa riflessione su che cos'è POC a 80 anni dalla liberazione e i suoi 18 anni, i suoi primi 18 anni. Prego,